È stato molto importante, è stato quello che ha permesso che la vicenda non venisse dimenticata, perché come sapete fin dalla prima notte, dalla prima sera ha avuto notizie che era stato abbattuto questo aereo da suo amico militare che lavorava a Ciampino, e da allora ha sempre fatto il giornalista, ha sempre fatto il giornalista d'inchiesta, ha sempre fatto le sue indagini e ha realizzato quel meraviglioso film Il Muro di Gomma, che domani per l'appunto in un suo omaggio alla fine della giornata di ricordo verrà rappresentato al Modernissimo. Sì, noi abbiamo voluto ricordarlo, eravamo, come sapete, il 19 luglio scorso proprio lì davanti al museo a fare una delle nostre tante iniziative estive per l'anniversario, e ci è giunta notizia della morte di Andrea. Da lì, in quel momento, tutti assieme, davanti a tantissime persone, abbiamo promesso che avremmo ricordato proprio lì davanti, in quel luogo tanto importante anche per lui e per la sua vita, Andrea Purgatori. E l'abbiamo chiesto al comune, abbiamo presentato questo progetto, il sindaco Lepore è stato ben contento di contribuire a ricordare, a fare memoria, come già nel suo programma c'è, insomma, no, questo piano per la memoria di queste tragiche vicende avvenute nella nostra città o insomma qui intorno, e quindi abbiamo avuto delle spalle che ci hanno, ovviamente delle teste che ci hanno ascoltato, delle spalle che ci hanno appoggiato, a cui ci siamo appoggiati. Alle 12:30 ci sarà l'inaugurazione di questa stele, di questo luogo, il muretto di Andrea, lì al Parco della Zucca, davanti al museo, dove ci sarà un QR code dal quale poter leggere tutti gli articoli che gentilmente il Corriere della Sera ci ha messo a disposizione, scritti da Andrea Purgatori dal giorno dopo la tragica vicenda fino agli anni 2000. Quindi è un momento importante di raccoglimento, di memoria, di onorare anche ovviamente la sua memoria, ma di volerlo, come dire, ricordare nel giorno del suo compleanno, e credo che sarà un modo, come dire, anche questo eterno, perché i cittadini, tutti coloro che passano di lì, possano riascoltare, risentire le sue parole e avere contezza di dell'importanza che ha avuto in questa vicenda. Come sapete, dopo l'inaugurazione, che sarà alle 12:30, all'1:30 andremo tutti assieme, vuol dire che ci saranno tantissimi giornalisti, rappresentanti delle, come dire, più importanti agenzie, dalla Federazione Nazionale della Stampa, all'Ordine dei Giornalisti, Articolo 21, e a Fiorenza Sarzanini, vice direttrice del Corriere della Sera, che appunto saranno con noi, verranno con noi alle cucine popolari, dove faremo questo pranzo di solidarietà con tutti gli amici di Andrea, per ricordarlo, per parlare di lui, per raccontare, per sentire parole, per fare un ricordo di questa importantissima persona per noi, per il giornalismo italiano e per l'Italia tutta, perché le sue vicende, insisto, hanno permesso che non si addormentasse, che non finisse nel dimenticatoio questa tragica vicenda. Allora, alla sera, per concludere, vi sarà anche Gianluca Farinelli, sempre di grande disponibilità, ha messo a disposizione il film Il Muro di Gomma, che sarà rappresentato al Modernissimo, e concluderemo con un saluto caro, mi piace dire, insieme ai figli di Andrea Purgatori, Edoardo, Ludovico e Vittoria. Ricorderemo tutti assieme il loro padre, il nostro grande amico e un grande giornalista. A proposito della proiezione del Muro di Gomma, il comune ha ricevuto una diffida da un'associazione che sostiene ancora la tesi dell'esplosione a bordo. Sì, no, non commentiamo, per favore, in una giornata così importante. Il sindaco credo abbia già avuto modo di rispondere. Io mi augurerò, insieme a tanti, insieme alla città, insieme al sindaco, una stele in ricordo di Andrea Purgatori, e al pomeriggio faremo il film, verrà proiettato un film che è andato a Venezia nel 90 e che ha una lunga storia di, come dire, giudizi positivi, verrà riproiettato al Modernissimo. Questo è quello che vogliamo fare domani, e credo che questo sia quello di cui dover parlare.